1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Quando sono le 7:19 minuti in questo istante preciso, almeno qui nell'orologio di Radio 24, magari siete avanti e indietro, a chi se ne frega, va bene, comunque questo è l'orario 7:19 ufficiale dai microfoni di Radio 24, buongiorno e ben ritrovati, eccoci qua a parlare di quello che raccontano i giornali al momento della rassegna stampa. Prima vi ricordo che parleremo di questa disputa sui compensi in Rai, ma non solo. Se volete, cari italiani, vi interessa sapere quanto guadagna Fabio Fazio, quanto guadagna chi lavora nella TV pubblica? Deve essere, siccome è pubblica la TV, tutto noto e poi misurate col guadagno o misurate con gli introiti che magari fa guadagnare una trasmissione? Cioè, che ne pensate di questo dibattito? Avremo ospite alle 8:15 il presidente della commissione vigilanza Rai, Roberto Fico, onorevole del Movimento 5 Stelle, e poi altri ospiti, e parleremo di questo tema che è anche ben presente oggi sui giornali, giornali che andiamo virtualmente a sfogliare. In questo mercoledì 16 ottobre le aperture sono tutte dedicate alla legge di stabilità. Ieri il via libera in Consiglio dei Ministri, il Sole 24 Ore, cuneo fiscale, tagli per 10 miliardi in 3 anni, manovra da 11,6 miliardi, minori spese per 3,5, sforbiciata sulle detrazioni IRPEF al 19%. Pochi tagli e mini aumenti in busta paga, il titolo poco incoraggiante del Corriere della Sera. Repubblica, Letta, meno tasse, salva la sanità. La Stampa, meno tasse a imprese e famiglie, la frase di Letta. Libero, via i tagli, restano le tasse. Il Giornale, manovra contentino. Il Messaggero, tagli agli statali, mini sgravi sul lavoro. Il Secolo XIX, Letta, meno tasse, salva la sanità. Un po' di respiro, invece, l'apertura di Avvenire, sanità senza tagli, mentre l'Unità, Letta, no tagli alla sanità. Le uniche due aperture, diciamo, diverse da questo tema sono il Fatto Quotidiano, così i saggi costituenti pilotavano i concorsi e la pubblicazione di alcune carte della Procura di Bari, mentre Il Rifiuto è il titolo del manifesto su Eric Priebke, la vicenda ad Albano Laziale. E da qui voglio partire, insomma, questa vicenda che davvero sembra eterna, mai conclusa. E ancora si è saputo dalle agenzie, l'abbiamo sentito anche in giornale radio, che la salma adesso sarebbe nell'aeroporto di Pratica di Mare. Non si capisce bene e non ci sono ulteriori dettagli. E il Corriere della Sera dedica, io quando l'ho visto oggi, per un attimo ho strabuzzato gli occhi, tre pagine intere dedicate alla vicenda dei funerali di Eric Priebke. Ieri il corteo preso a calci e sputi, il sindaco del comune che vieta il passaggio del feretro, il prefetto che invece, superando l'ordinanza del sindaco, dà il via libera, da una parte i partigiani o cittadini comune, dall'altra parte alcuni di estrema destra che si sono fronteggiati, un arresto da una parte e un arresto dall'altra, assalto al feretro, salta al funerale di Priebke, così titola il Corriere della Sera, pagina 8, proteste, scontri in strada, cerimonia sospesa quando irrompono addirittura i neonazisti. Insomma, io strabuzzavo gli occhi perché dicevo, ma non è possibile che questa vicenda si concluda o non si concluda così. Eppure il dato di fatto è che è davvero un gran casino. Priebke, ad Albano scoppia il caos, rabbia e scontri con i neonazi, la salma portata via nella notte, questo è il titolo di Repubblica, che va a intervistare con Carlo Bonini il prefetto Giuseppe Pecoraro, colui che ha autorizzato le esequie. Dice in questa intervista, pagina 10 a Repubblica, i morti per me sono tutti uguali, ecco perché ho autorizzato le esequie. Mi trovavo di fronte a una salma e alla legittima richiesta di una famiglia di esequie religiose che ho autorizzato in una struttura che aveva dato la sua disponibilità in forma strettamente privata. Potevo forse negare una benedizione cristiana? I morti sono tutti uguali, quali che siano i crimini efferati di cui si sono macchiati da vivi. Beh, ma chiedere pubblica la benedizione cristiana poteva essere dispensata nell'obitorio del Gemelli, in forma privata, magari in ore più consone alla riservatezza che non le 5 del pomeriggio ai Castelli in un paese medaglia d'argento al valore per la resistenza, o no? E crede che non ci abbia pensato, risponde il prefetto. Era la prima delle soluzioni, ma sono intervenute difficoltà non dipese dalla mia volontà e hanno reso quella struttura non disponibile. E qui Carlo Bonini chiede: ah, il Gemelli è l'ospedale dei vescovi, l'ostacolo è stato dal Vaticano, dal vicariato? Lasci stare, le dico solo che la struttura non era disponibile. Così risponde ancora una volta il prefetto. E il sindaco di Albano si è definito oltraggiato. Come ho detto, risponde il prefetto, non intendevo violare la riservatezza che doveva avere la cerimonia, contribuendo in questo modo a creare un clima che altri hanno creato. Non l'ho avvertito perché non volevo metterlo in difficoltà. Risultato, questo gran cancan, la rivolta della gente di Albano, difendiamo la nostra medaglia. Fabrizio Caccia fa l'articolo sul Corriere della Sera ponendosi la domanda iniziale con una foto di gente che piglia calci il carro funebre, e la domanda iniziale è proprio questa: ma è giusto prendere a calci un carro funebre? Seguono risposte e dibattito all'italiana. Allora, l'altro tema di cui ci occuperemo alle 8.15, appunto, questo tema che è molto sviluppato oggi sui giornali, vale a dire i compensi in RAI. In RAI perché è una TV pubblica, cioè non dimentichiamocelo, soprattutto in RAI, in quanto TV pubblica, ma il tema, se volete, è i grandi compensi dei grandi conduttori. Voi li volete sapere soprattutto in momenti di crisi, oppure non è giusto saperlo perché sono società che operano sul mercato e dunque sono dati sensibili, come per esempio ha detto Fabio Fazio a Brunetta: sono dati sensibili, c'è una clausola di riservatezza che mi impedisce di far sapere il mio compenso. Comunque è scoppiato anche una guerra di tweet. Grillo ha detto: verrò a Sanremo, ha lanciato questa idea, occupai Sanremo. Fazio gli ha risposto via Twitter in maniera ironica: beh, se ha due canzoni da presentare, perché no? E poi Grillo, molto molto pungente, quando Fazio dice: io difendo e faccio guadagnare la mia azienda, Grillo risponde: quando dice faccio guadagnare la mia azienda, a chi si riferisce? A Endemol, che è la casa di produzione del programma, quindi, o alla RAI? Questa è l'ironia molto puntuta di Beppe Grillo. La RAI, dice ancora Grillo, è tecnicamente fallita. Nel 2012 ha perso 245 milioni, le previsioni per il 2013 sono di una perdita superiore a 400 milioni, e dunque il direttore generale Gubitosi e la presidente Tarantola dove trovano i soldi da dare a Fazio? Questo chiede Grillo. C'è anche il commento di Aldo Grasso dal titolo Denunce giuste, moralismi sbagliati. Scrive sul Corriere: Grasso, fino all'altro ieri Fazio era l'uomo più corteggiato d'Italia. Case editrici, case discografiche, cinematografiche, politici, chiunque avesse voglia da promuovere sul mercato avrebbe fatto carte false per entrare in quel salotto. Adesso è la vittima sacrificale, per di più non uno dei suoi famosi invitati è intervenuto in sua difesa. L'onorevole professore Renato Brunetta si è divertito a sfregiare il galateo di quella trasmissione, come ha scritto il Foglio: là dove tutti mozartianamente si danno la mano di gomito, si baciano, abbracciano, complimentano, cenacolo e ritrovo e tavernetta casalingo dei meglio italiani, in tre inauditi minuti Renato Brunetta ha messo i piedi sul tavolo, il dito nell'occhio, le mani nel piatto. Insopportabile, implacabile, imperdibile. Questo è il passaggio del Foglio che Aldo Grasso ricorda. Senza fare il tifo né per l'uno né per l'altro, proviamo a ragionare su quanto è successo. Sui milioni che Fazio guadagna si è subito aperto il fuoco amico e nemico. Grillo, il solito Kodakons, parte del popolo del web. I soldi sono tanti, ma senza infingimenti e moralismi. La cosa più importante è che quei soldi siano un buon investimento. Se Fazio con i suoi programmi riesce ad avere un ritorno pubblicitario proficuo, significa che quei soldi sono bene spesi. A Mediaset, a Sky, alla 7 fanno così. Si dirà: ma la RAI è servizio pubblico. Veramente, scrive Grasso, come abbiamo detto più volte, la RAI ha perso da tempo la sua identità, è diventata una TV tra le tante. E qui mi fermo, ma insomma il commento continua a pagina 17, c'è il tema del canone RAI ovviamente. Comunque il tema è ovunque: stipendi RAI, Grillo minaccia Occupy Sanremo anche su Repubblica. mentre il giornale dice che questa polemica avrebbe fatto un'altra vittima. Dopo Crozza, ieri nervosissimo a mio modo di vedere nella copertina fatta con la sua solita ironia, ma questa volta secondo me tradiva davvero il nervosismo per il contratto che gli è saltato in Rai, l'altra vittima sarebbe per il giornale Roberto Benigni. Stop in Rai ai cachet stellari, dopo Crozza salta Benigni, così scrive il giornale a pagina 13, Laura Rio. Lo show 10 comandamenti per ora non si farà. Ufficialmente l'attore è impegnato, ma per averlo la TV di Stato avrebbe speso 4 milioni, ma i conti dell'azienda sono in rosso. Anche la stampa dedica 2 pagine a questo tema. C'è anche un'intervista ad Antonio Ricci, il fondatore di Striscia la Notizia, intervistato da Paolo Festuccia, pagina 10, dice Ricci, la TV... Il nostro è un paese cattolico e mafioso che vive di ipocrisie, tutti si indignano in maniera strumentale, salvo poi ricredersi. Se le cose vanno male, non è sempre colpa del ventennio o di quello che ha il cane Dudù o del nipote di Letta, democristiano nel DNA. È che non si guarda in faccia la realtà, i problemi non si risolvono. Il ruolo della TV, dice Ricci, la televisione è fatta per provocare e vendere. Non per discutere o scoprire la verità, non interagisce col pubblico, non insegna niente soprattutto. E quando lo fa va contro natura perché è il più grande postal market del mondo. Con la TV non si ragiona perché è rappresentazione, lo dimostrano i programmi di cucina, non si capisce una ricetta ma è lo spettacolo che domina, un apprendimento che vada oltre l'uovo sodo è impossibile. Lo stesso accade nei talk show. Beh, non le piacciono proprio, ma no, mi piacciono perché ho un gusto sadomaso. Ma sono fatti da conduttori psicopatici, con caratteristi ben vestiti, truccati da casa, che non vogliono essere pagati, anzi sarebbero disposti a pagare. Nei talk non c'è necessità di esprimere opinioni complesse, conta esserci, tutto è costruito sullo scontro, per lo spettacolo della politica. Del resto, dove troveresti una Santanché se non nei talk? Ecco, insomma, è questo Antonio Ricci che fa una riflessione sulla TV, ma anche la stampa appunto dedica 2 pagine con un'analisi anche di Mattia Feltri e i cachet, ve li dico, poi ne parleremo alle 8:15, 1,8 milioni per Fabio Fazio. Carlo Conti invece 1,4 milioni, così dice la stampa. Antonella Clerici 1,6 milioni. Mentre il costo del programma di Crozza bloccato in Rai sarebbe stato di 475.000 euro a puntata, questo tutto compreso. Va bene, la pubblicità e poi ripartiamo dalla legge di stabilità. 24 mattino. Le 7:35 minuti, allora il tema del giorno per molti giornali, ovviamente l'apertura è l'approvazione della legge di stabilità, la stretta sui contratti, gli straordinari degli statali per esempio, nessuna stangata sulla sanità, addirittura c'è chi dice che il ministro Lorenzin era pronta a dimettersi, una manovra complessiva di 11,6 miliardi, per il 2014, riduzione di spesa per 3,5 miliardi, il taglio del cuneo fiscale, che era uno dei provvedimenti più attesi, si è limitato a 3 miliardi nel 2014, nel triennio 2014-2016 invece la riduzione delle tasse sarà di 5,6 miliardi per le imprese, 5 per i lavoratori. C'è anche il taglio da 500 milioni delle detrazioni IRPEF, che oggi sono al 19%. Ovviamente trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore, tantissime pagine e anche ovviamente tutte spiegate punto per punto cosa cambia per le pensioni, pubblico impiego, nella sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture. Letta dice per la prima volta non salgono le tasse e anzi nel triennio la pressione fiscale scenderà dal 44,3 al 43,3, dunque un punto percentuale entro il 2016. Per la prima volta non salgono le tasse. Mi è venuta la battuta, verrebbe quasi da ringraziarlo, cioè chiede anche che gli italiani dicano grazie, per la prima volta non salgono le tasse. Per la verità poi ci sono in retroscena, Franco Bechis su Libero, vice direttore, racconta che la notte sia stata una notte delle risse dopo la favoletta, la chiamano così, cioè Franco Bechis racconta a un certo punto Letta è andato appunto in conferenza stampa per dare una versione abbastanza edulcorata di quella che Libero definisce in fondo una manovrina, ma poi si è tornato a litigare fino a tarda notte. In realtà sarebbe stato un confronto anche molto teso. oltre alle dimissioni annunciate o proposte dal ministro Lorenzin, ministra della Salute, racconta Goffredo De Marchis su Repubblica, c'è stato effettivamente questo faccia a faccia duro, con a un certo punto anche Enrico Letta che con Alfano ha avuto un duro scontro. Il titolo del retroscena è "Basta essere ostaggi di Berlusconi", con un rischio anche di crisi, e poi l'intesa su questo provvedimento, sul quale appunto c'è un mix di tagli e di tasse. L'approfondimento lo fa anche Dino Pesole sul Sole 24 Ore. C'è la delusione degli industriali sul cuneo fiscale, nel senso che i tagli sono, cioè il cuneo fiscale si sperava che fosse un po' più ampio come taglio, anche per il Manifesto a pagina 3 i tagli rinviati, il cuneo è al lumicino. Non lo so, Mauro Meazza, è difficile ovviamente, buongiorno Mauro, è difficile buongiorno, dare una complessiva lettura della manovra perché è molto complicata, ci sono tanti dettagli, ci sono tanti punti. È una manovrina, come qualcuno dice? No, manovrina non direi, nel senso che è molto composita. Ci sono tanti interventi dentro, oggi tu lo dicevi già su Sole 24 Ore, basta guardare pagine 2 e 3, ci sono un po' in pillole, diciamo, gli interventi, non sono neanche poi tutti, ma una sintesi di interventi fatta abbastanza in breve, e dà l'idea che insomma qui si passi dalle misure appunto per le pensioni, per indicizzare, cioè rivalutare le pensioni, almeno quelle fino a 3.000 euro, e poi si va invece al cuneo fiscale, all'IRPEF eccetera. Sulle nuove tasse che non ci sono, sì, diciamo si annuncia questo Trise, sì. È la Trise, nel frattempo, e abbiamo scoperto che però il governo stesso preferirebbe usare il maschile, quindi il Trise. Ah, diciamo, il Trise, attenzione. Il Trise. Sì, sì, vi do questo dettaglio. La tassa si chiama il Trise, cioè la tassa. In realtà la sigla sta per tributo, quindi come dire, per rispetto, poi vedremo che cosa l'uso deciderà. Rispetto per il tributo, minchino al tributo. Noi sempre rispettiamo moltissimo i tributi, figuriamoci, ci chiediamo appunto sulla pressione fiscale che andrà a diminuire. Nessun dubbio, non vogliamo mettere in dubbio le parole né del primo ministro né quelle naturalmente vicepresidente del Consiglio, bisognerà vedere un po' bene com'è l'effetto, perché è vero che lo sconto sul cuneo c'è, quindi un po' di soldi in busta paga dovrebbero arrivare, è vero anche che c'è un meccanismo per cui si ridurranno gli sconti dell'IRPEF, ad esempio sui farmaci, quelli che ti danno uno sconto IRPEF del 19%, c'è tutto un meccanismo che potrebbe abbassare questo sconto dal 19 al 18 e poi anche al 17%, quindi bisognerà che ognuno si faccia poi i conti in tasca. Ricordiamo poi che lo stesso Presidente del Consiglio, qui le Camere devono poi valutare, decidere, l'impianto è questo, ma molti dettagli potrebbero cambiare. E sappiamo che il diavolo è nei dettagli. Come al solito. Senti, per concludere, tu sei un grande interista. Devo ammettere di sì, ma lo dico con fierezza. Sì, sì, no, certo, uno può anche manifestare i propri lati deboli con fierezza, non è che sì, sul Sole 24 Ore non scrivete niente dell'indonesiano. No, no, invece ti sbagli. Noi già sorrido, no, ma è chiaro che era un assist per andare in gol. No, noi ce ne occupiamo anche perché si pensa, si immagina che questo ingresso come azionista di maggioranza, invito tutti i fratelli interisti anche a cominciare a familiarizzarsi con la lingua di Giacarta. Ah, chiaro, sì. Sappi che si dice tacca la bola, si potrebbe dire tacca la bola tipo autorete, come si dice, retrocessione, come si dice non colgo questa ironia da parte tua stamattina. Sì. Comunque ne parliamo perché, e questo è un dato poi interessante, potrebbe preludere questo ingresso da azionista di maggioranza a poi una successiva quotazione, quindi una quotazione che non necessariamente potrebbe avvenire in Italia a questo punto, quindi è interessante dal punto di vista finanziario. L'Inter, che tu ne possa dire, è un marchio conosciuto a livello internazionale, appunto a livello mondiale, quindi può avere un suo appeal anche su mercati borsistici, non italiani. Cosa mi tocca sentire? Vabbè, insomma, va bene, grazie Mauro Meazza. È stato un piacere. Lo so, e voglio solo immaginarlo. Grazie, ci troviamo domani ovviamente. Forza Milan, come sempre. Ringrazio anche te per aver appoggiato questo slogan, Forza Milan. E come dire, andiamo avanti sulla questione sulla questione politica, detto che appunto, no, per chiudere la legge di stabilità, Enrico Marro sul Corriere della Sera fa un editoriale invece parlando proprio di manovrina, addirittura di cifre sull'acqua, come nel 2007 per esempio a conti fatti non se ne accorgerà nessuno delle retribuzioni nette che aumenteranno, se va bene, in media 10-15 euro al mese. Non passa di qui il rilancio dei consumi. Speravamo in una legge di stabilità di svolta, ma non lo è. Il presidente del Consiglio Letta aveva alimentato grandi aspettative dicendo che avrà come cuore l'intervento per ridurre le tasse sul lavoro, aumentare i soldi in busta paga, ma scrive il Corriere in prima pagina, conti fatti, con un misero 1,5 miliardi nel 2014 così non sarà. Lavoratori e pensionati invece si accorgeranno subito di tagli e dovranno fare i conti con nuove tasse come la Tresi, che in realtà, ci ha spiegato Mauro Meazza, andrebbe chiamata il Tresi, il tributo. Vabbè, la politica invece su cosa si interroga? Slitta il voto di decadenza, sulla decadenza per Silvio Berlusconi al Senato. Qui è una questione tecnica, c'è subito chi accusa il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle ha fatto una richiesta che si cambi il regolamento per fare il voto palese. Allora bisogna convocare la giunta per il regolamento. Poi si inserisce un viaggio istituzionale che il senatore Grasso, presidente del Senato, deve fare. Va negli Stati Uniti e torna al 28 e quindi slitta tutto al 29 e quindi slitta tutto il voto di decadenza. Vabbè, adesso non me ne frega niente di dire le colpe politiche, il risultato, il dato di fatto, decadenza, voto rinviato al Senato. Questo è il titolo per esempio di Repubblica, scontro PD-PDL sul voto segreto, si rischia lo slittamento a dicembre. Anche per il Corriere, decadenza, tempi più lunghi, il Senato rinvia la decisione. Ah, vi do una pillola così che non c'entra niente, ma di politica, l'ho letta sul Corriere. Irene Pivetti, ve la ricordate? Ex presidente della Camera? Ebbene, Irene Pivetti sarà assessore al comune di Pizzone in Molise, assessore al turismo, venerdì prossimo. Che c'entra? Non lo so, però l'ho trovata qui e quindi è una pillolina, ve la do. A proposito di Berlusconi, c'è un Berlusconi che pare si sia sfogato molto coi suoi, evocando ancora una volta la crisi, la rabbia di Berlusconi. Come posso restare con chi mi accoltella? Come posso stare nella compagine di governo con chi mi accoltella? Lorenzo Fuccaro sul Corriere della Sera, ma anche il Giornale dedica una pagina con Francesco Cramer a questo sfogo di Berlusconi. Sono stato pugnalato dal mio alleato. Il Cavaliere torna a Roma, incontra Alfano e Fitto. Malumori per i giochi democratici sulla decadenza, tanto che resta la tentazione dello strappo. E tanto che, racconta Repubblica, addirittura Berlusconi avrebbe tentato di lanciare questa idea. È un retroscena di Carmelo Lo Papa che lo scrive. Dobbiamo sollecitare l'esecutivo per ottenere l'interpretazione autentica della legge Severino, cioè riconoscere che quella norma non può essere retroattiva, non può travolgermi, non può spazzarmi via così. E dunque il tentativo estremo, lo racconta Repubblica, l'ultima via di scampo del Cavaliere, il governo dichiari non retroattiva la legge Severino. Sulla questione Berlusconi c'è anche un dibattito che il Fatto Quotidiano lancia, e cioè: perché se ha una condanna passata in giudicato resta cavaliere? Cavaliere del lavoro? Daniele Martini racconta sul Fatto Quotidiano che ci sono due persone, il ministro competente, in questo caso Flavio Zanonato, oppure il prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca, che potrebbero, in base a una legge del 1986, la legge 194, approvare la procedura, cioè far, o meglio, intraprendere l'iniziativa per ritirare l'onorificenza a chi non è più ritenuto degno di potersene fregiare. Ma racconta il Fatto Quotidiano, né il prefetto di Milano e né il ministro Zanonato, interrogato su questo, ha risposto: non ho niente da dire. E dunque il Fatto dice: perché Berlusconi rimane cavaliere del lavoro? Perché? Perché? Vi lascio al traffico con questo atroce dubbio. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Vabbè, qua bisogna sempre correre. Allora vi voglio raccontare ciò che il Fatto Quotidiano mette a pagina 3 in apertura, un articolo che può far discutere, farà molto discutere, perché riguarda alcuni dei cosiddetti saggi scelti per proporre soluzioni per cambiare la Costituzione. Titolo di prima pagina già lascia spazio a poche interpretazioni. Così i saggi costituenti pilotavano i concorsi. Antonio Massari, pagina 3, le raccomandazioni dei saggi. Barbera spinge Pizzetti Junior. Poco importa che quel concorso che vedeva favoriti la senatrice Anna Maria Bernini e Federico Pizzetti, figlio dell'ex garante della privacy, si sia concluso con un nulla di fatto. Vedremo perché. Quel che importa è conoscere le pressioni, gli scambi, il sistema che ha pervaso un concorso universitario nel 2010 con la riforma Gelmini in vigore. Ci sono stati due autorevoli giuristi, Augusto Barbera e Giuseppe De Vergottini, 3 anni dopo assurti al rango di saggi su nomina del premier Letta e benedizione del presidente Napolitano, a esercitare queste pesanti interferenze. Questo è un virgolettato che hanno scritto i magistrati. Vale a dire, Barbera e De Vergottini, a loro è stato affidato il compito di riformare la Costituzione, ma sono gli stessi, racconta il fatto, che tartassavano di telefonate il commissario del concorso Silvio Gambino, perché il futuro saggio Augusto Barbera, definito negli atti sponsor di Pizzetti, chiede a Gambino: per l'Università Europea c'è il ragazzo che mi interessa? Sì, gli risponde Gambino, è un ragazzo molto preparato. De Vergottini invece contatta Gambino per chiedergli se sempre all'Europea il professor Ferrari intenda agevolare 2 candidate milanesi. Poi chiama lo stesso Ferrari e anche egli si informa su Pizzetti. Insomma, questo è l'inizio di un'inchiesta, per la verità è un'inchiesta in corso, il titolo è L'Italia dei Baroni. Tra l'altro l'onorevole Anna Maria Bernini e Pizzetti Junior e il figlio Federico Pizzetti sono le persone che sono, diciamo, anche citate in questa inchiesta. Insomma, il titolo è La raccomandazione dei saggi, Barbera spinge Pizzetti Junior. E vabbè, troviamo anche questo. Sempre per correre, vi dico che è morto Hans Riegel. Chiedete voi, Hans Riegel, Mister Haribo, quello delle caramelle, i coccodrillini, io non l'ho detto ai miei figli, non lo dico ai miei figli, se no mi piazzano 10 giorni di sciopero a scuola, non glielo dico, quello dei coccodrillini morbidi, le coca-coline, Haribo, lo sappiamo, non è che sto facendo pubblicità, cioè che sono veramente momenti dell'infanzia indimenticabili, ma anche dell'età adulta. Comunque è morto. La vicenda Inter, la vicenda Inter di cui parlavamo con Mauro Meazza, è una vicenda che c'è sui giornali. Moratti non molla, voglio leggere oggi la pagina 3 della Gazzetta, intervista al presidente Nicola Cecere, presidente, lo si può chiamare ancora così, fino all'assemblea dei soci, credo di sì. Insomma, Massimo Moratti, interessante questa intervista, perché racconta in poche parole come sia cambiato anche un certo mondo, come il mondo del calcio. Provo il sollievo di aver messo una cosa in buone mani, aver aperto all'Inter nuovi orizzonti. Per esempio, ci sono molte emozioni dentro di me, mentre firmavo, pensate, la firma è stata già una cosa strana, io firmavo in uno studio legale, loro firmavano, uno di loro da Los Angeles, uno da Hong Kong e un terzo a Mosca. Ecco, questo fa capire il mondo come è cambiato. Lei ha parlato di brave persone. Sì, ho detto anche buone persone, in effetti mi hanno fatto un'ottima impressione, abbiamo instaurato un rapporto eccellente e credo siano capaci di fare quello che devono fare. E Ale, l'Inter a giocare il campionato in Indonesia. No, non è che vanno a giocare il campionato in Indonesia. Comunque, To Inter è il titolo della Gazzetta, è un passaggio epocale. Siamo velocemente al momento della conclusione, il momento dell'articolo La Carta Costa. È il premio per la rassegna stampa per l'articolo più inutile scovato sui giornali. Sì, vince lei, vince Michelle Hunziker, cioè non lei, l'autrice dell'articolo è Maria Volpe sul Corriere della Sera, che dedica 3/4 pagina al fatto che Michelle Hunziker sia tornata a lavorare dopo 4 giorni dopo aver partorito. Al lavoro dopo il parto per me è stato facile e le do solo il mio latte. Prima la puppata, poi me lo tiro come tutte le donne e glielo metto, e poi mentre io sono in onda Striscia glielo dà Tommaso, che è il mio fidanzato, Tommaso Trussardi. E poi la stessa Michelle Hunziker dice: lavoro, e insomma sono a Striscia la notizia, è un divertimento. Se avessi un vero lavoro da 8 ore non sarei mica certo andata subito dopo 4 giorni a lavorare. Ma appunto, ma il tema, ma chi se ne frega, come diceva prima Paola Saluzzi, ma saranno figlia sua, saranno problemi suoi, sarà latte tutte suo, insomma, ricordatevi, cari amici del Corriere, che la carta costa. Il giornale radio, ripartiamo con il presidente Commissione Vigilanza Rai.